1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. E allora siamo qua, cari ascoltatori, siamo sempre sul pezzo. 24 mattino, siamo con la rassegna stampa alle 7:19 minuti. Siamo con Lorenzo Nespoli, come sempre in redazione, il nostro Peter Biscapè è lì in regia e siamo a leggere i giornali. Forza, avanti! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Eccoci qua in questo giovedì 28 aprile, i titoli intanto, il Sole 24 Ore apre sul DEF, le richieste della Camera sul DEF, più tagli al cuneo, sgravi al Sud, ecco le richieste delle Camere sul DEF, questo è il titolo di prima pagina. Poi ovviamente grande attenzione all'Austria e avremo ospite il sottosegretario all'interno Manzione alle 8:20, perché migranti, la sfida del Brennero è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per il Messaggero, muro di Vienna, alto là di Renzi. Per il Giornale, l'Austria si chiude e spedisce l'Italia in Africa. La Stampa invece, Brennero, lo schiaffo di Vienna. Per Avvenire, l'Austria è fuori. Una rete al Brennero, limiti al diritto d'asilo. E anche il Giorno, Brennero, ricatto austriaco. Repubblica invece, prescrizione lunga, sì della maggioranza, critiche dei giudici. Il tema giustizia, anche per il Fatto Quotidiano, in prima pagina, prescrizione, la legge truffa. Mentre Libero ha in prima pagina un libro che esce in questi giorni, Il sistema marcio delle Coop, un libro scoperchia i segreti dell'apparato che regge la sinistra, fatturati da holding ma con licenza di evadere, mazzette, speculazioni, risparmiatori traditi, lavoratori trattati come schiavi. È insomma uno spaccato delle cooperative non proprio edificante in questo libro. Allora, siete pronti per il concorsore della scuola, cari precari italiani? Oggi i primi iscritti per 165.000 candidati già in possesso dell'abilitazione. In 150 minuti 8 domande ci si gioca il posto. In palio ci sono 63.000 cattedre, quindi un terzo ce la farà e due terzi a casa. L'articolo che mi ha più colpito, non sapevo di questa cosa, è Il Giorno. Luca Salvi racconta a pagina 21. Come detto, è il concorso che è dedicato a coloro che hanno già una abilitazione all'insegnamento. Ce ne siamo occupati anche la scorsa settimana. Ebbene, io non sapevo che l'abilitazione si può ottenere anche andando 3 mesi in Romania o Bulgaria. È il cosiddetto tirocinio formativo est europeo, se vogliamo chiamarlo così. Andata e ritorno dalla Transilvania, in 3 mesi si diventa docenti provetti. Costa 10.000 euro e un'abilitazione, racconta Luca Salvi sul Giorno, in Transilvania val bene un posto da insegnante nella scuola italiana. È la nuova moda del se plus facile, che dopo dentisti e avvocati contagia anche il corpo docente. Abilitazione nelle università di Romania o Bulgaria in soli 3 mesi, anzi in buona parte svolta online, giusto in tempo per concorrere a uno degli 11.176 posti disponibili in Lombardia. Con le stesse possibilità dei colleghi che hanno seguito il tirocinio formativo attivo di un anno, ma mettendoci un quarto del tempo, senza obbligo di frequenza, la differenza si paga la cassa, è 7.000 e tra i 7.000 e i 10.000 euro costa andare in Romania e Bulgaria, mentre 3.000 in genere per il TFA, non si sa quanti saranno i candidati di abilitazione est europea presenti al concorsone stamattina, ma ci sono, ed eccola la nuova moda, si va in Romania, si va in Bulgaria, si paga, anzi molto spesso si fa tutto online, poi magari un viaggetto lì bisogna farlo finale, e si ottiene l'abilitazione e poi si può fare il concorso. E a lei tutto a norma, tutto a regola. Oggi sui giornali troverete una polemica di Beppe Grillo, che se l'è presa nello spettacolo che sta portando in giro per l'Italia, era a Catania, contro i certi giornalisti, non è la prima volta, solo che l'accusa questa volta è molto molto dura, e cioè Casaleggio è stato ucciso da certi giornalisti. Tutti i giornali che hanno fatto editoriali per la morte di Gian Roberto ed erano stati denunciati da lui. Insomma, un Beppe Grillo che manda un vaffa gigante ai giornali, soprattutto perché dice: io reagivo, lui si teneva tutto dentro. Ed ecco, insomma, l'accusa pesantissima, quella in qualche modo che tutti questi attacchi hanno procurato anche la causa della morte di Casaleggio, tant'è che Filippo Facci, oggi in prima pagina sul Libero, morto chi legge, è molto duro. E scrive Filippo Facci: i giornali fanno venire il tumore al cervello alla gente. Non tutti i giornali, non a tutta la gente, però tutti quelli che hanno fatto gli editoriali dopo la morte di Casaleggio, lui li aveva querelati. Gian Roberto è morto per colpa di quegli articoli. Questa è la frase di Grillo. L'assioma non è chiaro, ma l'ha proposto Beppe Grillo durante uno spettacolo a pagamento a Catania. Ora, da un'accusa così cretina non sarebbe neanche il caso di difendersi. Oltretutto, Libero non è mai stato querelato da Casaleggio, non può neanche annoverarsi tra coloro che hanno scritto bene di Casaleggio solo dopo la morte, visto che Libero non l'ha fatto neppure allora. Hanno tanti difetti i giornali, ne hanno anche più di quelli che forse Grillo immagina, ma non fanno venire i tumori al cervello. E diversamente come aveva predetto Grillo, e diversamente da Casaleggio, sono ancora residualmente vivi. Finiranno, come tutto in questa vita, e quindi finirà anche la tendenza a sottovalutarli, sono morti, e dunque a sopravvalutarli. Gian Roberto è morto per loro. Nell'attesa ci restano poche certezze. Una è che Casaleggio non è morto per colpa dei giornali. L'altra è che Grillo è vivo anche per colpa dei giornali. Questo è Filippo Facci oggi su Libero, insomma il commento è abbastanza urticante, come dire. Oh, la bella storia l'ho trovata oggi. La bella storia ci viene raccontata da Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, dove c'è un sindaco, scrive Alberto Mattioli sulla Stampa pagina 12, gli dedica una pagina intera, un sindaco, detto il baby sindaco, perché ha 30 anni, si chiama Davide Ranalli, è del Partito Democratico, ha deciso di triplicare gli investimenti in cultura, visto che con la cultura non si mangia. Dopo anni di proclami senza seguito, annunci senza conseguenze, eccolo qua, uno che in Italia scommette sulla cultura. Appena arrivato sindaco, ha investito 780.000 euro, circa il triplo rispetto a prima, in cultura. Visto che la città ha 32.500 abitanti, si tratta in pratica di 24 euro di investimento per ogni cittadino, numeri da paese civile. Sindaco dal 9 giugno 2014, appena arrivato, primo atto della sua amministrazione, ha triplicato i fondi per la biblioteca, il museo Baracca e soprattutto il teatro Rossini. Il perché lo spiega nel suo ufficio, nella Rocca Estense. E insomma dice: per due ragioni, intanto fuori di retorica per il valore in sé, perché fa crescere i cittadini e la qualità di una città non si vede solo da quanto asfalto c'è e da come è tenuto, e poi perché la cultura è anche un volano di sviluppo. Ecco, vero, con la cultura si mangia, come ormai hanno capito tutti tranne Tremonti. Però l'aspetto interessante non è solo che un amministratore decida di spendere così i soldi, ma anche che gli amministrati gradiscano. A parte i soliti leoni da tastiera che su Facebook mi hanno dato subito del fighetto, risponde il sindaco, mi sembra che i cittadini approvino e inizi a frequentare teatro o biblioteca anche chi non era mai stato abituato a farlo. La cultura è anche riscatto sociale. Ed eccolo qui, insomma, il sindaco di Lugo, intervistato dalla Stampa, mi sembra una buona cosa, ha triplicato i fondi per la cultura nella sua cittadina. Che dire, siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Eccolo qua, se siete alla guida mi raccomando appoggiate anche tutte le cose come oggetti contundenti se siete a colazione, come sempre vi dico. Fabrizio De Feo racconta sul Giornale che una Sicilia travolta dai debiti, ma Crocetta istituisce il reddito di cittadinanza. Un annuncio, peraltro, fatto dal governatore che fa sobbalzare la sua stessa maggioranza. Nella mini finanziaria dicono non è previsto e non sappiamo di che cosa parli. E dunque, nella mini finanziaria ci sarà la norma sul reddito di cittadinanza. Questo ha anticipato il presidente della regione Crocetta ai giornalisti, ma anche la sua maggioranza dice non ne sappiamo nulla. Eccolo l'annuncio del governatore della Sicilia travolta dai debiti. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, etichetta Rossoneta, il conduttore che crea un'atmosfera. E allora, eccoci qua con la nostra atmosfera, cari ascoltatori, a leggere le notizie dai giornali, a cominciare dall'Austria, un tema che affronteremo anche più avanti. L'Austria che cosa fa? Non è che ha proprio alzato una barriera, forse non l'alzerà mai al Brennero, ma ha minacciato di farlo, cioè sembra sempre più vicina l'idea che l'Austria possa ripristinare i controlli, possa in qualche modo rallentare il traffico tra noi e loro al Brennero. Il tema è quello dei migranti. Vienna alza una rete al Brennero e chiede di fare controlli già in Italia. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Ovviamente il governo italiano con Renzi si è molto arrabbiato dicendo che è tutto contro le regole europee, oltre che contro la storia, contro la logica e contro il futuro. Questo ha detto Matteo Renzi. Tra l'altro sul Corriere della Sera c'è un articolo e un'intervista al sindaco di Tarvisio, vicino a un'altra frontiera, Renato Carlantoni, 52 anni, che dice da noi ancora nessun blocco, ma qui è emergenza continua. Tra l'altro Fiorenza Sarzanini, a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta con due cifre che non è neanche il caso che l'Austria metta questa barriera, anche perché le cifre dei passaggi di migranti tra l'Austria e l'Italia smentiscono un po' l'allarme austriaco. L'Austria esporta tra virgolette più migranti di quanti ne arrivano dal nostro paese, cioè sono più quelli che dall'Austria passano all'Italia rispetto a quelli che dall'Italia passano all'Austria. E c'è un dato che il governo italiano sta facendo pesare nei colloqui con i rappresentanti dell'Unione Europea, proprio questo, e cioè in realtà il problema sono flussi in entrata. Nel 2015 sono state 3.143 le persone che hanno varcato il confine, mentre nei primi 4 mesi del 2016, cioè da quando è cominciata la campagna di Vienna, sono 2.051 e siamo già dunque oltre il 65% rispetto al totale degli ingressi di un anno fa. Nella maggior parte si tratta di pakistani e afghani, dunque nazionalità che non hanno diritto automatico a vedersi riconosciuto lo status di rifugiati. Questi sono i flussi in entrata in Italia, e oggi Alfano ne parlerà con il collega dell'interno Sobotka, collega austriaco. Sta di fatto che Renzi è molto arrabbiato. Secondo la stampa, Renzi ora si aspetta sanzioni dall'Europa contro Vienna, dicendo nessuna ritorsione unilaterale, cioè noi non la faremo. Questa è la linea del governo italiano. Noi non risponderemo a un atto unilaterale con un altro atto unilaterale. Esiste l'Europa, esistono le sue regole che non devono valere solo quando si tratta di imporre austerità e controlli sulle nostre leggi di stabilità. La Commissione europea deve intervenire su Vienna con la massima forza possibile. È in gioco il futuro dell'Europa e non solo il rapporto tra Italia e Austria. Questo ha detto, ed è la linea con i suoi collaboratori, di Matteo Renzi, che sicuramente ne ha parlato già con il presidente Jean-Claude Juncker. È il senso della telefonata che c'è stata ieri, secondo la stampa, una telefonata senza mezzi termini, con un punto di caduta tutto politico. Cioè l'Italia, sarebbe stato il ragionamento del nostro Presidente del Consiglio, non può essere la vittima della rincorsa al populismo del possibile neopresidente austriaco Hofer dopo la sua affermazione alle presidenziali al primo turno. E dunque l'Italia non vuole pagare tutto questo. Comunque di Austria continueremo a parlare. Certo, sui giornali è ben presente anche la vicenda giudiziaria che invece coinvolge Stefano Graziano, il consigliere regionale campano, nonché presidente del PD nella regione Campania, che è accusato di appoggio esterno ai casalesi. Di fatto, Graziano e il boom di voti nell'area dei casalesi è il titolo più gettonato oggi, e cioè si va a vedere quanti voti ha preso Graziano alle ultime elezioni regionali in alcuni comuni come Casa Pesenna, Trento la Ducenta, Casal di Principe, terreni, territori dove i casalesi certo sono presenti, e fanno notare gli inquirenti che ha circa raddoppiato i suoi voti rispetto alle precedenti elezioni. Oddio, non è che raddoppiare i voti sia di per sé una colpa, anzi per un politico in genere non lo è, dovrebbe essere un merito. È certo che però gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Si sono incontrati in occasioni pubbliche, anche privatamente, e cioè Graziano incontrava Alessandro Zagaria, che è considerato, anche se imprenditore, affiliato ai casalesi. Questo è ciò che sono gli sviluppi. Secondo Repubblica sono altri politici anche nel mirino dei PM. Ma riguardo a questa vicenda, l'articolo, a mio modo di vedere, più interessante è quello di Fabio Tonacci a pagina 7 di Repubblica, perché torna alla questione degli agenti sotto copertura, gli agenti infiltrati. Sapete che è una proposta che ha lanciato Davigo, ma è una proposta che vuole anche il magistrato Gratteri, che ha fatto parte di questa commissione che ha elaborato delle proposte, poi non ancora adottate dal governo, ma boh, allo studio, chi lo sa, quello di mettere degli agenti infiltrati che propongono di fatto delle mazzette e poi al politico o all'imprenditore, insomma, alla persona che poi dopo viene accusata di corruzione. E allora Fabio Tonacci ricorda a pagina 7 di Repubblica che ci fu un precedente. Lo chiamavano tutti Enzuccio. Si presentava come l'ingegner Vincenzo Varricchio. In realtà era il colonnello dei carabinieri del ROS, Vincenzo Paticchio. Fu il primo agente sotto copertura utilizzato in un'indagine sulla corruzione. Era il 1996. E Paticchio, con le sue investigazioni, lambì Montecitorio e il centrosinistra. Sul tavolo di Renzi giace da 16 mesi la proposta depositata dalla commissione guidata da Nicola Gratteri, che prevede l'utilizzo di 007 con licenza di proporre mazzette tutelati nella loro identità anche di fronte a un giudice. Se venissero attuate queste norme sarebbero novità clamorose. E torniamo allora a quel primo esperimento. Come andò 20 anni fa? Un vicepresidente della regione Campania, Rocco Fusco, finì sotto processo, poi fu assolto. A Enzuccio Fusco snocciolò una lista di politici di destra e sinistra in qualche modo interessati agli appalti della TAV. Fu lo stesso Paticchio a raccontare che tutti, sia camorristi sia personaggi della regione, pretendevano di fare la cresta pure sulle tangenti, e fece i nomi: il colonnello Bassolino, Mastella, Casini, Rastrelli erano i più importanti. Nessuno di loro è stato mai imputato per la TAV, eppure l'indagine scatenò un putiferio per l'idea dell'allora vicecomandante del ROS, Mario Mori, di usare l'infiltrato per scoprire chi si doveva ungere per far andare avanti i lavori. Ci furono discussioni infuocate in Parlamento, si tirarono fuori manuali di diritto penale per dimostrare che il colonnello aveva commesso il reato di istigazione. E lo scontro salì fin quando l'allora titolare del Ministero dell'Interno, Napolitano, Giorgio Napolitano, emanò il decreto col quale toglieva la centralità decisionale ai tre reparti scelti che avevano indagato sulla TAV, sui DS, sulle COP rosse, su Riina. Questo fu il precedente. Ora, torneranno questi agenti infiltrati? Questa è la proposta di alcuni magistrati, tra cui Davigo, tra cui Gratteri e anche altri. È interessante questo articolo su Repubblica, andate a riscoprirlo. E poi invece è interessante anche il caso, non so, si può dire ormai umano, di Bertolaso. Io sostengo da tempo che fa apposta, faccia apposta. Bertolaso ieri al Corriere.it ha detto non la frase come la troviamo sui giornali, cioè farei l'assessore con Raggi o Giachetti sindaco, ma insomma alla domanda di Tommaso Labate farebbe l'assessore, ma insomma potrei collaborare, poi ha smentito, ha fatto una retromarcia Berlusconi infuriato, e la telenovela Bertolaso che continua a insomma mietere gaffe una dietro l'altra continua. Farei l'assessore con Raggi o con il PD, questo è il titolo che trovate, ripeto la frase non l'ha detta così, ma il dato di fatto è questo. Non è solo, non è l'unica questione in mano a Berlusconi come una patata bollente, perché Berlusconi in realtà c'ha il Milan, c'ha altre questioni e tra poco queste le vedremo. Non so se considera un problema Silvio Berlusconi la notizia che Massimo Tartaglia, ve lo ricordate, quello che gli scagliò una statua a forma di duomo sulla faccia, è tornato libero in maniera definitiva, non è mai stato condannato a nulla perché è giudicato totalmente incapace di intendere e volere, ma affidato alle cure di uno psichiatra. Ora Massimo Tartaglia ha avuto revocata la libertà vigilata disposta 6 anni fa in quanto è venuta meno la sua pericolosità sociale. E dunque Massimo Tartaglia è un uomo totalmente libero. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, come al solito mi fai precedere da vicende di... Dal Duomo, scusa, dal Duomo. Dal Duomo, vabbè. Dal Duomo. Prendiamo l'oggetto, allora, il Duomo. Volevo segnalarti, caro Alessandro, che si stanno preparando degli interventi sulle pensioni. Mm-hmm. Lo puoi leggere sul Sole 24 Ore, pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi, dove c'è un riassunto di questo piano per la flessibilità. Però ti volevo anche dire, tu che sei giovane, beato te, sarai difficilmente, potrai rientrare in questa platea. Altri come me che sono più anzianotti possono leggere con interesse le varie misure che si prospettano così riassunte. Vedremo che cosa di tutto questo prenderà corpo. Intanto noi aspettiamo domani perché è confermato il decreto banche. Oh. Sapevo che tu te l'avevi segnato in agenda, quindi te lo volevo confermare. Decreto banche, come sai, c'è tutta la parte che riguarda anche i rimborsi per i risparmiatori che hanno perduto i risparmi nelle 4 banche cosiddette risolte, cioè alle quali è stato applicato il procedimento di risoluzione. Oh, vuoi comprare un faro? Ci compriamo un faro. Un faro? Un faro. Proprio quelli dove si poi fanno... Un faro. Perché sì. Vengo via poco? Guarda, dobbiamo sentire... Comunque, leggi, intanto comincia a leggere su Casa 24, oggi è giovedì, quindi c'è Casa 24. Su Casa 24 c'è anche appunto la segnalazione, l'avanzamento di questa vendita di fari e case sul mare che sta portando avanti il demanio da un po' di mesi. Ci sarà anche una seconda tranche, lo annuncia oggi, lo segnala oggi Casa 24, quindi comincia a mettere da parte, tu puoi mettere come al solito i 2 urini, perché vabbè, se non ci compriamo il faro ci compriamo il Milan, perché no, scherzo, naturalmente è una cosa che non posso fare per conflitto di interessi sentimentali, ma su Finanza, oggi sulla prima pagina di quelle di Finanza, trovi appunto l'aggiornamento sulla vicenda del Milan, che potrebbe, ebbene sì, potrebbe passare la mano completamente il cavaliere sulla proprietà del Milan. I ladroni? Ma Alibaba, ma qui è più la cordata Galatioto, ti sto dicendo. Ah, eccola, è vero, la fonda, è vero che la linea sole è Galatioto. Tutti i dettagli sulla pagina, con molte altre notizie, sulle pagine di Finanza. E poi... hai preso l'ebook ieri l'Istanbook sul 7:30? Ho detto che me l'hanno dato qua. Ah, te l'hanno portato, vabbè, sì, ok. Sì. Molto premurose le nostre colleghe che si occupano dell'ufficio stampa, ma ti voglio dire, se per caso tu l'avessi perso, guarda che sul sito c'è adesso in formato anche ebook, lo puoi acquistare dal sito del Sole 24 Ore, dove troverai anche, tra l'altro, sempre in formato ebook, una guida al patent box. In ultimo, ti vorrei segnalare una buona notizia: calano gli interessi di mora sulle cartelle dal 4,88% al 4,13%. Lo trovi su Norme e Tributi. Un'altra buona notizia, tu che ne sei sempre a caccia, è finalmente operativo il bonus per acquistare strumenti musicali, 1.000 euro di sconto per gli studenti degli conservatori e degli istituti cosiddetti pareggiati, tutti i dettagli su norme e tributi, e poi ti voglio dire il canone della TV, il bolletto, sì. questo nuovo prelievo che si sta assillando, questa nuova modalità di prelievo che si sta assillando. Allora c'è il sì del Consiglio di Stato, si parte, adesso il decreto attuativo andrà in gazzetta e quindi potrà partire il sistema di pagamento del canone TV nella bolletta. Tutti i particolari su norme e tributi, con grande fatica teniamo botta a questo cambiamento. Tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il brocchi dell'informazione! Ale, avevo detto non compriamo non prendiamo brocchi, perché si sarebbe prestato a va bene, dai, infierite, andate avanti, nessuno ha detto Alibaba, i 40 ladroni di chi sono, no, vabbè, niente, andiamo avanti. Allora, dicevamo, Berlusconi ha dei problemucci, nel senso che, a parte Forza Italia, a parte l'accusa che Salvini ieri ha fatto qui ai microfoni di 24 Mattino con Oscar Giannino, con me, e cioè che Renzi ricatta Berlusconi con le sue aziende, no? Con le leggi che potrebbero dare soldi per i diritti televisivi. Oggi questa notizia è ben sviluppata da tutti i giornali, è ben ripresa da tutti i giornali. Il Corriere della Sera dedica proprio una pagina alle dichiarazioni di Salvini fatte qui a Radio 24, e parla Fedele Confalonieri, lo fa con Il Foglio, intervistato, o meglio, qualche battuta con Salvatore Merlo. La Cina è vicina. Intanto ride così Fedele Confalonieri e pensa subito al Milan, ovviamente, alla cordata cinese, ai miliardi del signor Jack Ma, il patron di Alibaba. Anche se poi Confalonieri dice subito: non parliamo del Milan, allontana da me questo calice, riferendosi alle scritture. Una frase che lui non completa, perché ancora allude con ironia, ma che nel Vangelo prosegue così: non sia fatta la mia ma la tua volontà, che in questo caso sarebbe quella di Berlusconi. Quel signore molto ricco, ancora molto influente malgrado le sentenze, l'incandidabilità, tanto che Fedele Confalonieri a un certo punto, in questo suo colloquio con Il Foglio, dice: Berlusconi è stato trattato da Bauscia, da Ganassa, da Ribaldo, da ignorante, da paria, da infrequentabile, e invece guardatevi intorno, guardate l'Italia, la sua cultura, i suoi tic, il suo costume. Lui ha lasciato il marchio in questo paese. Insomma, conclude Confalonieri, Berlusconi ha vinto. È uno che ha vinto nella società, vero o no che Renzi sia suo figlio, è anche un uomo che lentamente, scendendo faticosamente a patti col proprio incontenibile orgoglio, accetta pure le trasformazioni e i cambiamenti, la tirannia del tempo, con le sue minacciose lancette. E allora bollorea Mediaset, un'operazione, dice Confalonieri, che dimostra quanto Pier Silvio sia bravo. Rizzoli, il capolavoro di Marina, Berlusconi. E il Milan vedremo presto, dice Confalonieri ancora. E Forza Italia? Ecco, forse l'unica cosa sulla quale le idee sono meno chiare. Così Fedele Confalonieri sul Foglio. Intanto, signori, guardate che ci sono le nomine in arrivo. Oggi Carlo Bonini racconta su Repubblica chi sono i nomi, non c'è tempo perché sono tanti, i nomi più gettonati alla Guardia di Finanza. Chi dovrebbe andare alla Polizia di Stato? Dovrebbe andare Franco Gabrielli, prefetto di Roma. Sembra abbastanza chiaro che sarà il nuovo capo della Polizia. E poi al capo dei servizi segreti, sapete chi potrebbe andare? Questo è un nome che mi ha incuriosito, al posto di Giampiero Massolo. Tronca! Lui, Francesco Paolo Tronca, colui che adesso è commissario straordinario a Roma, potrebbe essere il nuovo capo dei servizi segreti. Si saprà forse... domani. Tra le varie notizie mi ha incuriosito di cronaca estera, vi segnalo la pagina 19 del Corriere della Sera sul Venezuela, dove c'è una crisi energetica terribile, viene tutta data la colpa al Niño che non porta più la pioggia, quindi c'è grande siccità, in realtà sono problemi ben più strutturati. Comunque il Venezuela si trova al buio e il presidente Maduro ha fatto una nuova legge di emergenza straordinaria, ha annunciato che gli statali lavoreranno, pensate un po', 2 giorni alla settimana. C'è poco da ironizzare, eh? C'è poco da ironizzare, già vi vedo. Gli statali lavorano solo il lunedì e il martedì e per il resto 5 giorni a casa. La situazione è gravissima, il governo decreta la settimana di 2 giorni lavorativi per far fronte alla mancanza di elettricità. In realtà è una situazione drammatica, periodicamente drammatica in Venezuela, con razionamenti anche di cibo, cioè gente che non riesce più a trovare la razione minima per cibarsi, anche famiglie fino a poco fa, non dico benestanti, ma comunque che riuscivano a cavarsela. E questa pagina è sul Corriere della Sera. Poi se volete, appunto, c'è tutto del Milan, se volete o se non lo volete, il Milan forse passa ai cinesi, chissà, l'offerta cinese è quella di Jack Ma, lo abbiamo visto anche a Vinitaly, quello che vuol vendere il vino italiano, quello che insomma è il patron di Alibaba, il Messaggero e anche la Gazzetta dello Sport, che titola: che fai Silvio, vendi o rilanci? E mette questa foto di Silvio Berlusconi recente con gli occhiali da sole a presentare Bertolaso, sembra effettivamente un giocatore di Texas Hold'em che dice all in, all in. Va bene, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ho trovato un trafiletto sul Corriere della Sera. Che tenero. Oggi lo leggerò a Zen, il mio gatto. Se i cani e anche i gatti, immagino, soffrono di ansia da abbraccio e da selfie. Non fate troppi selfie ai cani, lo dice la British Columbia. 250 fotografie analizzate di uomini abbracciate ai cani, ha scoperto che i cani in 8 casi su 10 soffrono questo disagio. Ma chi se ne frega!